noi sapevamo che verso 6:30 si sarebbe presentata nella piazza di Genzano appunto Renata Polverini per chiudere la campagna elettorale, diciamo, di Barbaliscia, che sarebbe il candidato della PDL nel comune di Genzano, e quindi diciamo in un gruppo più o meno di 30 persone ci siamo diciamo diretti verso la piazza e ovviamente cercavamo un confronto, diciamo che poi magari è andato a finire in altri modi, però noi cercavamo un confronto appunto su temi come quello della discarica, di cui ci occupiamo anche con te, sui temi della sanità, perché comunque i Castelli Romani sono praticamente il risultato che da 2 anni vengono chiusi i pronti soccorsi sui pronti soccorsi. Ecco, c'era comunque un nutrito numero di forze dell'ordine che appena individuato il nucleo di persone, diciamo, che collegate al inceneritore, diciamo che ci ha cominciato a marcare a distanza e non ci ha permesso neanche di arrivare, diciamo, a un livello di distanza tale per cui noi potevamo interloquire con la Polverini. Abbiamo trattato che comunque dovevamo rimanere nella piazza, non potevano cacciarci, insomma, per mandare avanti questa contestazione, e appena ha cominciato a parlare appunto la Polverini, noi abbiamo cominciato una contestazione vergogna, fascista, insomma, quello che c'era permesso fare a quella distanza, perché comunque dal palco non c'era nessunissima intenzione di ascoltarci e di ascoltare le nostre ragioni e tutto. Tra l'altro noi, diciamo, le bandiere comunque relative al coordinamento contro l'inceneritore le abbiamo tirate fuori soltanto in un secondo momento. Inizialmente noi volevamo effettivamente cercare un minimo di contraddittorio, non c'è stato, abbiamo cominciato comunque a rovinargli l'intervento, questo è riuscito benissimo, le guardie comunque ci marcavano a distanza ma ci hanno permesso di contestare verbalmente appunto la Polverini e tutta la sua troupe, e così, insomma, questa è durata perlomeno più o meno per tutto l'intervento. E poi ecco, è da evidenziare il fatto che ci ha risposto, diciamo, veramente in maniera, diciamo, deplorevole, cioè offendendoci di tutto, secche, ci siamo addirittura sentiti dire fascisti dal candidato appunto della PDL Barbaliscia, cioè di tutto, insomma, che è stato un match di insulti. Giustamente questo ha scritto il Messaggero, è andato a finire un match di insulti che tra l'altro comunque quella che insomma ci ha perso un po' di più è stata lei, perché comunque lei era lì per farsi una campagna, per fare campagna elettorale al suo candidato, noi eravamo lì per contestarla, quindi quel match di insulti ha fatto molto comodo a noi e sinceramente poco comodo a lei. Io mi soffermerei soltanto un secondo, senza addentrarmi troppo nelle politiche, diciamo, dei Castelli, come lei è arrivata totalmente, totalmente ignora di quelle che sono anche le politiche, diciamo, che si fa Barbaliscia, ad esempio sul policlinico. Barbaliscia appunto per opportunismo politico è sempre stato uno che, diciamo, l'ha combattuto, diciamo, è stato sempre politicamente contrario, facendo il gioco di dire noi non vogliamo che si costruisca un grande policlinico se il prezzo da pagare è la chiusura dei pronti soccorsi, quando invece la Polverini è arrivata decantandosi quest'opera come se fosse opera sua, visto che comunque i soldi effettivamente sono stati stanziati dalla regione proprio ecco per appunto per il policlinico. Quindi da sottolineare la totale ignoranza di questi personaggi che vengono appunto in piazza ad appoggiare i candidati di cui non sanno minimamente, diciamo, le politiche locali che cercano di portare avanti.